Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Il derby della penisola iberica a chiudere il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. La Spagna, una delle grandi favorite, incontrava il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sentiamo. Un gol del solito David Villa, il quarto dall'inizio di questo mondiale, e la Spagna vola ai quarti di finale superando di slancio il Portogallo e planando su una sfida contro il Paraguay che fa sognare. Non è stato semplice per gli uomini del Bosque avere ragione dei cugini lusitani, arrivati alla sfida senza aver mai nemmeno subito un gol, pur provenendo dal girone infernale, quello con il Brasile. Ci sono voluti 62 minuti di palleggio e attacchi non sempre continui e spesso imprecisi, e ci è voluta un'invenzione del Guache, implacabile nel superare la disperata difesa di Eduardo e nel ribattere in rete dopo essersi visto respingere una prima conclusione a colpo sicuro. Gol su cui pesa la posizione di fuorigioco di Villa al momento dello scatto decisivo, una posizione non rilevata dal direttore di gara, l'argentino Baldassi, e dai suoi collaboratori, e che si scrive nel lungo elenco di errori decisivi da parte degli arbitri in questo mondiale. Nel finale Portogallo in 10 per l'espulsione di Ricardo Costa per un colpo a Capdevila, ancora non pervenuto Fernando Torres, poi sostituito, solo qualche lampo per Cristiano Ronaldo, il più atteso. Il suo era una specie di derby, l'ha perso non riuscendo quasi mai a rendersi pericoloso. Potrà rifarsi con la maglia del Real Madrid da settembre, mentre la Spagna entra nelle otto magnifiche in un tabellone quasi monopolizzato dalle sudamericane, vere dominatrici sin qui della rassegna sudafricana. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Ottavo degli outsider nel pomeriggio con Giappone e Paraguay, per continuare in un torneo che da entrambe le parti era già andato oltre ogni aspettativa. Partita brutta e molto lunga, e per la prima volta in questo torneo abbiamo visto i rigori. La prima volta che non si scorda mai tocca al Paraguay. Né loro né il Giappone, sconfitto, avevano mai superato le colonne d'Ercole dei quarti di finale di un mondiale. Succede ora, e facciamo pure le smorfie pensando a chi poteva esserci al posto del Paraguay, vincitore del gruppo F, ma che non diventi una consolazione, men che meno un alibi. È stato un ottavo da poveri, brutto e buio, tra due squadre equivalenti e non certo nell'eccellenza. E forse un po' a corto di benzina, perché la strada programmata non doveva essere così lunga. A ben guardare aveva speso di più il Giappone, in un gruppo con Olanda, Danimarca e Camerun, ben più complicato di quello dei paraguayani. E non stiamo facendo dell'ironia, solo parlando di calcio. Ieri il nullo quasi fino al minuto 120, con i giapponesi che si confermavano gli unici capaci di dare del tuo a Jabulani, specie su calcio piazzato, e quell'onda che si è dimostrato fino alla fine, cioè al suo rigore segnato con facilità irrisoria, un gran bel giocatore. A pensarci, non è successo nulla neppure ai rigori, neppure un portiere da eleggere ad eroe. Ha sbagliato Comano, terzino destro giapponese, che il suo lo ha stampigliato sulla traversa. Carlo Genta, GR24, Sole 24 Ore. Oggi primo giorno di riposo del Mondiale, si ricomincerà a giocare venerdì con una partitissima Olanda-Brasile alle 16, mentre in serata, sempre venerdì, in campo Ghana e Uruguay. Roberto Rosetti non fa più parte della lista degli arbitri del Mondiale. Il nome del direttore di gara torinese e quelli dei suoi assistenti Calcagno e Roldi non figurano infatti fra quelli diffusi dalla FIFA che rimangono a disposizione per le partite dei quarti di finale in poi. Fuori anche l'uruguaiano Jorge Larrionda, che non aveva visto il gol fantasma dell'inglese Lampard contro la Germania. Intanto, dopo i colossali errori arbitrali degli ultimi giorni, a quanto pare Blatter ci ha ripensato. Il numero uno della FIFA, chiedendo scusa a Inghilterra e Messico, ha aperto la strada all'uso della tecnologia sulla linea di porta. Joseph Blatter rompe finalmente gli indugi dopo i silenzi della federazione nei giorni scorsi sull'utilizzo della tecnologia in campo. Il presidente della FIFA ha chiesto pubblicamente scusa a Inghilterra e Messico per gli evidenti errori che hanno penalizzato le due squadre negli ottavi e soprattutto ha aperto la possibilità di usare una tecnologia per la linea di porta. Magari attraverso l'utilizzo del replay, parola da sempre tabù per i vertici della federazione. E infatti qualche ora dopo l'incontro con i giornalisti Blatter ha puntualizzato: il calcio è uno sport in cui non ci si può fermare. Sono scettico che si possa interrompere una partita per analizzare l'azione alla moviola. Morale, nulla di fatto, restano le scuse e un generico impegno che la faccenda venga discussa a luglio a Cardiff nell'incontro della federazione internazionale. Fino ad allora nessuna novità, per le partite che rimangono Blatter si affida alla fortuna, incrociamo le dita, speriamo che non si ripetano altri errori, ha detto ai giornalisti. Niente male per chi soltanto lunedì in un'intervista alla CNN aveva detto di non fidarsi delle tecnologie attuali, tecnologie secondo lui non ancora sicure e attendibili. Flavio Bini, GR24, Sole 24 Ore. Italia ed italiani ormai spettatori di questi mondiali, spettatori interessati a giudicare dai dati televisivi che parlano di 7 milioni e mezzo di telespettatori su Rai 1 per Brasile-Cile di lunedì. Quanto alla nazionale, domani sarà il giorno della presentazione di Cesare Prandelli, nuovo CT. Martedì 10 agosto a Londra, nello stadio del Fulham, la nazionale italiana giocherà la prima amichevole con Prandelli in panchina. L'avversario è ancora da definire. In lizza Costa d'Avorio, Uruguay ed Egitto. È tutto.